Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Vedo strani movimenti qua di oggetti luccicanti dorati in studio, ma comunque ne parliamo fra poco. Adesso i titoli, benvenuti e benvenute a Mebius. I titoli e poi incominciamo. L'istinto musicale. Come e perché abbiamo la musica dentro? Dalla neurologia alla psicologia alla teoria musicale, gli studi su scienza e musica sono sempre più numerosi, ma siamo ancora lontani da una teoria organica e condivisa. Le nanotecnologie arriveranno anche nello sport. Grandi prestazioni o grandi problemi? Nei laboratori del Centro Sant'Anna di Pisa si sta progettando una mano robotica controllata intuitivamente e percepita come un arto naturale. Ci voleva la polizia scientifica per risolvere il caso misterioso della flagellazione di Piero della Francesca. Ecco, questa è la trasmissione di Scienza Mebius e sullo sfondo ci sono dei sax. Tra l'altro uno è suonato dal professor Carlone della banda Osiris. Questo potrebbe crearmi dei dubbi. Però c'è anche, vedo, Alberto Agliotti che della redazione fa parte e quindi dovremmo essere qualcosa che ha a che vedere con la scienza. E poi ho anche in linea, e questo mi conforta definitivamente, Silvia Bencivelli. Ciao Silvia. Ciao Federico, ciao Alberto e allora buonasera al professore anche. Esatto. No, ci siamo, i conti dovrebbero tornare assolutamente. Silvia Bencivelli, giornalista di scienza e tra l'altro autrice anche di un libro, Perché ci piace la musica, uscito qualche anno fa, ma adesso esce una nuova edizione, Collana Galapagos, edizione Sironi. Va bene, allora, intanto, professor Carlone, buonasera. Buonasera, ho appoggiato lo strumento, sassofono soprano, che ho portato con me. Va bene, Alberto Agliotti, ciao. Ciao Federico, buonasera, ho appoggiato anch'io lo strumento. Buonasera professor Carlone, ciao Silvia. Il mio era un sassofono baritono invece. Ecco. Sassofono baritono. Quello grosso, una pipa enorme. Sì, con tu delle ritorte. Che è più piccolino. Sì, il mio è dritto, è come se fosse un clarinetto però in metallo. Però in metallo. Però non bisogna confonderlo dal clarinetto perché quello in legno e il sassofono è in metallo. Ed è cosa ben diversa. E di diversità nella musica parleremo adesso, però con una sottolineatura particolare, cioè cerchiamo di capire, e sentiremo anche dei pezzi, no Alberto, in che modo c'è una connessione tra la musica e ciò, insomma, come è fatto il nostro corpo, la nostra testa, le nostre sensibilità. Sì, diciamo che cercheremo di capire che rapporto c'è tra scienza e musica, o meglio, la musica ormai da un po' di tempo è diventata oggetto di studio della scienza, ma di diverse discipline, perché si va ovviamente, vabbè, dalla storia della musica, musicologia, ma si passa dalle neuroscienze, dalla biologia, dalla psicologia, l'antropologia. Perché la psichiatria musica, anche, la psichiatria, per studiare i musicisti. Si arriva alla psichiatria, perché la musica riguarda sicuramente l'uomo, non si sa quanto riguardi gli animali, però riguarda, pare, tutte le culture e forse da sempre. Mm. Vero Silvia? Dunque, quello che tu mi chiedi di dire è un po' più complicato di così, nel senso che se uno dice la scienza si occupa di musica da qualche tempo in qua, sta prendendo una cantonata, perché il primo di cui abbiamo notizia che se ne si è occupato è stato Pitagora, che insomma è vero, è vissuto già da un bel po' di annetti. Quanto alla biologia, effettivamente le discipline di ambito biomedico sono le ultime arrivate, si segna così convenzionalmente l'inizio dell'interesse di questo tipo di scienza per la musica con il 1871, o almeno lo segno io, ecco, che è l'anno in cui è uscita L'evoluzione dell'uomo di Darwin, e nell'evoluzione dell'uomo Darwin fa delle ipotesi rispetto alla musica, che lui stesso definisce uno dei doni più misteriosi di cui la natura ci ha fornito, insomma, lui stesso lo riconosce come un oggetto misterioso, e poi da lui fino a oggi, insomma, di medici, biologi, e di tutti quelli che si occupano insomma di scienze della vita che sono interessati alla musica ce ne sono stati diversi, tanti come dicevi te. C'è stato un inizio antichissimo, però è proprio negli ultimi anni che c'è, negli ultimi decenni insomma, che c'è un'attenzione forte a questo rapporto tra musica e corpo, no? E mente, e come la percepiamo. Alberto, c'è un testo, no? Da cui c'è ci un siamo testo ispirati che... per questa trasmissione, e poi però mettiamo i piedi nel piano. Mettiamo i piedi nel piano. sfogliando. Il professor Carlone sta sfogliando il testo. La musica del libro, questa. Esatto. Infatti. C'è un testo che è L'istinto musicale di Philip Ball, che è uscito in italiano, nell'edizione italiana, insomma, da poco, edito da Dedalo, e che fa un po' un'analisi appunto dei vari studi che sono stati fatti sulla musica da parte della scienza, e quindi ripercorre un po' la storia di questi studi e prende anche un po' una posizione, cosa un po' strana per un giornalista scientifico, ma in effetti perché abbiamo anche una giornalista come esperta? Proprio perché, si diceva, sono tante le discipline che studiano la musica, e però non c'è ancora un paradigma di riferimento, una teoria. Una delle grandi domande che ci si fa è se la musica, l'istinto musicale, è qualcosa di connesso alla biologia, alla natura dell'uomo, oppure se è solo un fatto culturale, o più probabilmente un mix delle due cose. Va bene, cosa ci fate sentire? Cosa facciamo sentire? Facciamo... Beh, un pezzo lunghissimo. Un brano lunghissimo, infatti preparatevi, verranno distribuite coperte a casa, anche viveri per la lunghezza del brano. Ascoltiamolo e poi faremo una domanda. Va bene. Prendo lo strumento. È veramente stremante. Sì. È stremante. Cioè, però è meritava. Sono provato. Cosa abbiamo sentito? Infatti no, lo chiediamo a te Federico, cosa ti sembrava che fosse? Erano due note, diciamolo. Due note, ma sì. Che relazione avevano tra queste note? Che relazione avevano fra loro? Come ti sembravano? Una un po' più bassa, l'altra un po' più acuta. Ma? Erano la stessa nota suonata a due ottave diverse, cioè c'è un intervallo di un'ottava, due altezze diverse. Una più bassa e l'altra più alta, però era la stessa nota, quindi più alta, frequenze differenti. Che nota è? Era un Do. Un Do. Era un Do e un Do più acuto. E un Do più acuto, sì, Do-Do. E questa relazione tra queste due note, che stanno a un'ottava di distanza, appunto, era già una di quelle cose che ha scoperto Pitagora. Esatto. Cioè la frequenza della nota più acuta è il doppio della frequenza della nota più bassa. E queste due note suonano come se fossero uguali, cioè nonché di comune, anche se sono diverse, perché c'è questa relazione. E questa è una spiegazione fisica, appunto, nella vibrazione che è doppia in un caso rispetto all'altro, ma forse è qualcosa che rientra anche nella natura dell'uomo, perché l'ottava, la relazione fra le ottave, è una cosa che c'è in molte, quasi tutte le culture musicali. È diffusa in tutte le culture? Pare di sì, insomma, pare di sì. Io non sono una musicologa, ma sembra proprio che sia così. Del resto ha, come dicevi tu, una spiegazione fisica che varrebbe anche se noi non avessimo le orecchie e il cervello, cioè la frequenza, che secondo la mia uno è una al doppio dell'altra, e una spiegazione psicologica dai tempi di Vincenzo Galileo che la stiamo cercando. A noi l'ottava suona come un suono strano, particolare, migliore degli altri, perché insieme queste due note le riconosciamo come la stessa, e questo vale per tutti gli uomini sulla Terra. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Questa però è la concorrenza, non potete farcela. Vi pregherei anzi di lasciarla perdere. Era la sigla. Era la sigla di Super Quark, però. Ragazzi. Certo, la sigla di Super Quark, ma anche un pezzo di Johann Sebastian Bach. Questa è l'aria sulla quarta corda, che magari tutti conoscono come Quark o Super Quark. È ben altro. Per noi è una sigla. Torniamo a noi. Alberto, allora facciamo un altro step, facendo un altro esperimentino online. Facciamo un altro esperimentino e chiediamo al professor Carlone ancora di eseguirci una melodia, di nuovo non di sua composizione, nemmeno di Bach, ma insomma sentiamo. Una composizione famosissima. Però che... Perfetta. Ecco, Federico, tu l'hai riconosciuta? Sì, San Martino, Campanaro. Adesso invece sentiamone un'altra. Sì. Voi mi guardate e dite, certo, è la stessa, però non è la stessa. Però è la stessa, ma non è la stessa. Già, perché in realtà parte da un'altra nota. Però cosa c'è di uguale? È la relazione fra le note che rimane costante. Quindi l'aspetto interessante qui è che il nostro cervello riconosce una melodia. Quindi voi state dicendo attenzione a non fare una considerazione di tipo banale, e cioè ci viene istintiva dire, certo, beh, insomma, la stessa. È la stessa cosa, però parte da due punti diversi. Parte da due punti diversi, non è, sono due frequenze diverse, quindi potrebbe essere una cosa differente, che il cervello percepisse una cosa differente. Essendo che l'intervallo tra le note è il medesimo, riconosciamo la medesima melodia, però non è una cosa così ovvia non come è sembrerebbe. Ovvia. Silvia, qui sono quelle classiche cose del comportamento mentale alle quali ovviamente siamo molto abituati, tendiamo a definirle come banali, ma in realtà non è così. No, che non è banale, non è banale per niente, tant'è che ci sono persone che invece avrebbero riconosciuto anche il primo dei due Martini, insomma, come avrebbero detto, in realtà non siete partiti dal Do, siete partiti dal Sol, senza avere, esatto, nessun altro riferimento a cui aggrapparsi. Sono quei diavoli con l'orecchio assoluto, quelli che riescono a riconoscere una nota anche senza altri punti di riferimento. Poi ci sono gli stonati, che invece non avrebbero proprio riconosciuto che la seconda melodia era la prima, o forse sì, via, perché San Martino proprio fin da piccoli, le orecchie tutti, però ci sono degli stonati seri che non riescono quasi a cantarla, insomma, pur essendo perfettamente integrati tra noi. E poi non è nemmeno banale, perché noi l'abbiamo riconosciuta, l'abbiamo trovata piacevole, abbiamo battuto il piede, alla seconda abbiamo detto ah, che burloni, e qui dietro c'è un sacco della nostra cultura. Nella percezione della musica non c'è soltanto la biologia, c'è anche, certo, l'abitudine, la cultura, e il fatto che noi a certe cose siamo abituati e ad altre no, certe cose le associamo a cose positive, altre a cose negative, eccetera. Quindi banale non c'è proprio niente. Non c'è proprio niente, c'è però la nostra capacità come macchina di riconoscere, beh, in fondo parole diverse ma che dicono la stessa cosa, insomma è quasi difficile da definire questa cosa, che non è non banale. Non è banale, infatti la definizione non è banale. Abbiamo un ultimo esperimento. Sì, perché la musica non è solo melodia, quindi successione di note, ma è anche armonia, cioè note suonate insieme. Quindi va bene, facciamole sentire. E ecco, questo cos'è, scusate? Queste erano due note, eravamo solo in due, quindi ne abbiamo suonate due, non riusciamo a farne contemporaneamente altre. Era un bicordo, due note suonate contemporaneamente su diverse frequenze, due note differenti che però convivono insieme e creano un'armonia, quindi non solo la melodia è quella monodica, insomma, quella orizzontale, potremmo definirla la musica orizzontale. L'armonia è quando leggiamo le note in verticale, quindi si sovrappongono più note insieme, però creano un accordo che sembra un suono solo, ma un accordo piacevole da ascoltare. Piacevole, ma l'armonia non è sempre armoniosa, diciamo. Ci sono anche delle armonie, cioè dei bicordi che volutamente potremmo dire che non sono così piacevoli al primo impatto. Proviamo a eseguirne uno. Questo è più brutto di quello di prima. Esatto, è più brutto. Sentirlo così anche da solo, perché magari se lo inseriamo all'interno di una composizione di passaggio potrebbe essere anche una cosa che è funzionale a note, certo, precedenti o successive, certo, e può diventare piacevole anche quello. Da solo, così, poverino, fa è un po' sì. E però sulla percezione appunto del piacere oppure del fastidio legato ai suoni suonati insieme, quindi sulle consonanze, si chiamano dissonanze, si fanno molti studi sia sui bambini, sui neonati, sia sugli animali, per capire quanto di innato c'è in questa percezione. Sì, Silvia ha lavorato su questo. Sì, però attenzione, perché consonanza e dissonanza sono le definizioni appunto che attengono al culturale, come dicevo prima, cioè il biologico e il culturale, consonanza e dissonanza le decidiamo più o meno noi, tant'è che ci sono i critici della musica che dicono che la storia della musica è la storia dell'adattamento alle dissonanze. Tu l'hai chiamata dissonanza fino alla fine dell'Ottocento, nel Novecento invece è musica moderna, e quindi insomma bisogna fare un po' di attenzione. Dall'altra parte c'è chi invece ha un approccio più biologico, più scientifico, tutto questo, che effettivamente, come dicevate voi, si è messo a studiare animali e bambini per vedere non soltanto che cosa c'è di innato, ma anche che cosa c'è di specifico dell'uomo. Cioè, se tu prendi un bambino piccolissimo e studi un certo carattere umano, studi che cosa c'è di innato in quel carattere umano, quindi probabilmente che cosa fa parte del nostro bagaglio biologico, che cosa è lì nel nostro cervello. Se tu studi un animale e lo confronti con l'uomo, stai probabilmente studiando piuttosto quali sono le differenze che nel corso dell'evoluzione, quindi nel corso di una storia molto lunga hanno favorito l'emergere di un certo carattere in una specie o in un'altra. Quindi è come mettersi in una macchina del tempo e andare a vedere fino a quanto indietro quel carattere esisteva, no? Noi e certe scimmie, le scimmie più vicine a noi, ci siamo separati più o meno 7 milioni di anni fa, cioè il nostro nonno in comune di 7 milioni di anni fa. Se vediamo che un carattere ce l'abbiamo sia noi sia loro, possiamo dire che ha 7 milioni di anni o forse più. E questo ci può dare delle indicazioni sul perché ce lo abbiamo, no? Perché 7 milioni di anni fa facevamo una vita che adesso non facciamo. Nel frattempo le cose sono cambiate sia per noi sia per le nostre cugine scimmie, però se l'abbiamo conservato vuol dire che serviva in entrambi i modelli di vita, diciamo così. Certo. Dopodiché consonanze e dissonanze però studiate nei bambini e negli animali hanno dato dei risultati sorprendenti, per cui per esempio ci sono degli scienziati italiani che hanno fatto degli studi molto belli sui neonati, da cui pare di capire che quelle che noi chiamiamo consonanze effettivamente anche i neonati le consonanze piacciono e le dissonanze non piacciono. Come a dire che insomma tutta questa cosa culturale forse è un po' un'esagerazione degli umanisti. Infatti su questo mi piacerebbe chiamare in causa il professore, se posso. Sì, e sono io il professore in questo caso. Gli umanisti e i musicisti sembrano dire che la cultura prevale sulla natura, insomma puoi essere educato alla musica, esiste una musica alla quale ti educhi meglio, altra alla quale ti educhi peggio, ma comunque tutto dipende dall'ambiente, dalla cultura eccetera eccetera, e non esistono cose belle e cose brutte. Gli scienziati tendono a dire non esistono cose belle o cose brutte, ma esistono cose naturali e cose innaturali, per cui certa musica è normale che non ci piace, certa musica è più adatta alle orecchie dell'uomo. Allora la domanda per il professore è: la infastidiscono i discorsi di questi scienziati? No, perché quando comunque si sta ricercando qualcosa, si sta studiando qualcosa, credo che ci siano sicuramente più punti di vista, e questo è comunque interessante perché crea un dibattito e crea una discussione, che quando si discute intorno alla musica è sempre qualcosa di interessante, visto che comunque non è, almeno qui in Italia, non è mai una cosa di cui si discute a sufficienza, quando invece è una cosa che influenza tantissimo la nostra vita, di cui ne facciamo un grandissimo uso dai ragazzini, dai bambini, fino a quando ormai la musica è dappertutto, forse prima era meno, adesso qualsiasi, siamo da una segreteria telefonica al centro commerciale c'è sempre musica, e forse dovremmo parlare quello che infastidisce in quel senso, quanto, come la musica viene utilizzata. Non, invece finché se ne parla e si studia, assolutamente io sono concordo su tutto, e poi ognuno ha dei punti di vista differenti, ma questo è interessante. Sei consonante, insomma. Sono consonante, forse giusto una piccola cosa, forse gli accordi, le consonanze sono più piacevoli perché appunto le note stesse, è una cosa che non abbiamo detto, sono costruite da suoni armonici. Una nota che sentiamo come singola in realtà non è singola, ma è una costruzione di suoni armonici che si riproducono a diverse frequenze e assommati insieme creano una nota sola. Forse appunto, essendo che all'interno di una nota ci sono questi suoni armonici che sono in realtà consonanti, forse ci aggrada di più una consonanza che non una dissonanza. E questo è ancora forse più complicato, bisognerebbe far sentire gli armonici che compongono una nota per far capire questo, ma questo sarà la prossima puntata. Proveremo a farlo. Grazie professor Carlone, grazie Alberto Agliotti, grazie Silvia, ci salutiamo con una dissonanza piacevole. Sì, gradevole. Vi ricordo in conclusione i titoli dei libri di cui abbiamo parlato. Uno era di Philip Ball, edito da Dedalo, e il titolo è L'istinto musicale, come e perché abbiamo la musica dentro, e questo è appena arrivato in libreria. Il testo invece, Perché ci piace la musica, è un saggio scritto appunto da Silvia Bencivelli, edito dalle edizioni Sironi. C'è un libro che è uscito credo un paio d'anni fa e che è molto interessante, però ne sta arrivando una nuova edizione aggiornata con altri esperimenti che sono stati fatti nel frattempo. Silvia Bencivelli in questo libro affronta una serie di esperimenti piuttosto interessanti, per esempio tutta una serie di tentativi di far ascoltare della musica a delle scimmie con dei risultati sorprendenti. Se non ricordo male, addirittura le scimmie amano moltissimo dei suoni che per noi sono assolutamente tremendi e inascoltabili. Questo è tutto per quanto riguarda i due libri di cui abbiamo parlato. Mebius presenta Nano Channels. Il progetto europeo sulle nanotecnologie. E questa sigla l'avete già sentita un'altra volta, questa è la seconda, perché Moebius partecipa con altre testate europee, il The Guardian in Inghilterra e il Mundo in Spagna, a questo progetto europeo Nano Channels, che si interessa di valutare come sono percepite le nanotecnologie dal largo pubblico e anche di fare informazione, perché certamente già qualcosa vediamo, ma stanno per arrivare, è una grande rivoluzione tecnologica che sta per arrivare e che entra in tutti i settori. Abbiamo già fatto una puntata dedicata ai nanofarmaci, oggi proprio facciamo qualcosa di completamente diverso, perché parleremo di nanotecnologie e sport. E qui con me questa sera ci sono collegato al telefono Dario Ricci. Ciao Dario. Buonasera, buonasera a tutti, auguri. Commentatore di sport di Radio 24, e quindi sei una voce che i nostri ascoltatori conoscono molto bene. E qui di fronte a me in studio ho Giorgio Rondelli. Ciao Giorgio. Buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che noi ti conosciamo direttamente come giornalista per diverse testate, sarai anche commentatore, credo, per la televisione svizzera, sì, alle Olimpiadi di Londra, anche agli europei e poi tutta la Diamond League. Così. Però contemporaneamente tu hai una grossa esperienza anche come preparatore atletico da tempo, anzi hai incominciato così, ma anche adesso tu stai probabilmente per portare quanti atleti a Londra? Ma diciamo che l'idea è cercare di portarli tutti. Nell'84, quando il mio atleta più importante Kova vinse le Olimpiadi di Los Angeles, erano quattro. Adesso sono quattro di nazionalità diverse, più una delle due che si chiama Alice Bett, una delle due triatlete insieme all'Annalisa Mazzetti, che possono hanno le chance, hanno già fatto entrare i punti, devono solo confermarle per andare a Londra. E Dario Ricci, no Dario, anche tu sei particolarmente attento al rapporto fra tecnologie e sport, ed è questo di cui andiamo adesso a parlare. Perché? Perché effettivamente queste nanotecnologie, soprattutto agendo sui materiali, sono in grado di introdurre delle performance, no, come si dice in gergale sportivo, che sono alquanto potenti. Allora vorrei con voi sentire la vostra opinione sia sul fatto che effettivamente queste nanotecnologie possono cambiare, no? Potremmo avere già adesso abbiamo un problema con le racchette da tennis che sparano velocità 220 km/h. Potremmo arrivare a 350, il che praticamente renderebbe inutile fare una partita di tennis se si arrivasse a questo. Ma poi magari entriamo nei particolari. Oppure, che ne so, perché il salto in alto con l'asta potrebbe andare ben oltre i 6 metri e trovarci con dei materiali che li spingono a 12 metri. Oppure le scarpe da corsa, tutte queste cose qua. Però allo stesso tempo vorrei ragionare anche con voi sul fatto che comunque c'è tecnologia nello sport da diverso tempo e magari gran parte del pubblico alcune cose non le conosce. Con te Giorgio avevamo visto prima dell'intervista alcune cose che poi ti chiederò. Comunque, prima, liberi, qual è la vostra idea generale di questo rapporto tra tecnologie che arrivano e sport? Incominciamo da te Giorgio. Beh, certamente la tecnologia è sempre qualcosa che va avanti, no? Quindi anche le piste, le stesse piste di atletica sono sempre più performanti, tant'è che poi anche la IAAF ha dato delle regole ben precise. Pensiamo che la pista di Atlanta nel 96, dove Michael Johnson fece il record dei 200 metri 19-32, poi battuto da Usain Bolt, sembra che fosse addirittura avesse una componente elastica così importante, tanto da essere poi smontata il giorno dopo, che è probabilmente irregolare. Per poi molti atleti anche del mezzo fondo ebbero problemi muscolari perché era troppo performante. È chiaro che con questo tipo di piste anche la preparazione dell'atleta dal punto di vista muscolare, tendineo e quant'altro deve essere adeguata, perché sennò abbiamo delle piste per delle Formule 1 con degli atleti che Formule 1 non sono, anche se poi invece non è così. Ecco, per esempio Dario, questa cosa che buttava lì adesso Giorgio, abbastanza, no? Ci possiamo tirare fuori un attimo dalle nanotecnologie e vedere già in che habitat viviamo, perché effettivamente lascia un po' stupiti questo fatto che ci sia una pista fatta apposta per delle Olimpiadi che poi arriva e scompare. Questo è un po' inquietante, no? Beh, in quel caso credo che ebbe grande influenza la spinta proprio del tifo americano alle spalle di Johnson, c'era questo record di Mennea da battere e da scrivere una pagina della storia. Devo dire che più in generale è un equilibrio dinamico quello tra sport e tecnologia, e credo che dall'altro versante il grande problema sia quello di trovare un regolamento stabile che riesca a stare al passo delle innovazioni. Non a caso poi il versante sicuramente meno appassionante è quello poi che ci ritroviamo nelle aule di tribunali sportivi sempre più piene anche di ricorsi in questo senso. Del resto il campo d'applicazione è di fatto infinito, andiamo dalla Coppa America di vela e lì regolamenti e tecnologia cozzano direi quasi quotidianamente, al nuoto stesso abbiamo analizzato insieme, ti ricordi, la vicenda dei super costumoni, sì. Ma quelle nanotecnologie sono cambiate i materiali, ma rimangono invece ancora applicate ai costumi pur fatti con i tessuti diciamo tradizionali. E poi le stesse magliette di calcio, ne parlavamo in occasione dei mondiali di Sudafrica 2010, magliette fatte con materiali riciclabili addirittura e con applicazione di nanotecnologie proprio per rendere più facile la traspirazione, ma soprattutto addirittura per diminuire gli attriti con palloni ed aria. Insomma, ce n'è materiale per Mebius. Ce n'è parecchio. E qui già emerge, direi, questo doppio versante, perché certamente una maglietta che rende più confortevole giocare, perché no, no? Però poi invece ci sono altre cose che intervengono sulla competitività. Nano Channels, il progetto europeo, ha fatto diverse inchieste di vario tipo, anche attivando dei focus, dei social networking. E per esempio quello che è venuto fuori tra coloro che praticano sport, no, non gli ipersportivi professionali, ma quelli che sono i due livelli, quelli che hanno un forte hobby e poi gli altri, quelli che invece fanno qualcosa con semiprofessionale, no? La domanda fatta a questi due gruppi, che cosa pensate dell'arrivo delle nanotecnologie? Il gruppo più professionale, anche se non sono, insomma, Ibrahimovic, dice perfetto, mi va bene, perché tendenzialmente sono i più competitivi. Gli altri, che hanno invece soltanto un grosso hobby, dicono non vorrei che mi sconvolgesse completamente la vita. In che modo, Giorgio, in atletica potrebbero veramente entrare, questa cosa c'entra con la competitività e quindi alterandola? C'entra, nel senso che nella tua premessa c'è già una forma di risposta, cioè a chi interessa di più, a chi ha maggiore grado di competitività, perché poi alla fine la differenza può farla anche il budget a disposizione dell'atleta. Prendiamo le grosse polemiche che ci sono state per il portavoce dei diversamente abili, Oscar Pistorius. Si dice che le sue protesi, quelle usate in certe competizioni, erano fuori legge, non erano quelle state approvate dalla IAF e dal COSA quando ha fatto certi tempi. Adesso bisogna vedere quel giorno, a quell'ora, i giudici gliel'hanno controllate, non gliel'hanno controllate. C'è stata una grossa polemica e poi, siccome poi io credo che in quell'occasione non è stato controllato, probabilmente ha usato quelle normali, almeno noi pensiamo così. Qualche polemica così, per qualche rumor, diciamo anche per Alex Zanardi, cioè sicuramente è un grosso, grandissimo atleta, però sicuramente il suo mezzo tecnologico è sicuramente all'avanguardia rispetto a quello di altri diversamente abili. Però altri diversamente abili possono avere alle spalle una struttura, sì, un budget magari illimitato. Perché questo che tu dici è quello che tu dici è che non è detto che poi l'arrivo di queste nanotecnologie o in generale arrivi su tutti i prodotti. Voglio dire, anche parlando anche di un altro atleta, Mo Farah, che è campione dei 5-10.000 europeo e medaglia d'argento ed oro sui 5-10.000 metri agli ultimi mondiali. Lui vive e si allena in America, lui ha a disposizione una camera iperbarica, lui ha a disposizione la crioterapia dove recupera molto prima, a 40 sotto zero, sta due minuti, e quindi e gli altri ce l'hanno, no? No. E quindi c'è questa tecnologia portata al massimo della sua esasperazione o del suo utilizzo, e altri atleti che non sono sostenuti magari da dei colossi di marchi, certo, sportivi, non ce l'hanno. Dario, mi ricordo che con te in un'altra trasmissione, appunto, di Mebius, parlavamo del fatto che a un certo momento, per esempio nel nuoto, un certo tipo, no, di costumi potrebbero semplicemente esaltare delle caratteristiche fisiche che uno ha. Quindi a quel punto solo chi ha quel tipo di per dirla brevemente, per quel tipo di sedere va più veloce. Abbiamo l'esempio proprio di un nuotatore principe del nuoto azzurro, tornato tra l'altro recentemente alla ribalta, sia per risultati sportivi sia anche per il suo legame sentimentale con la divina Federica Pellegrini, e parliamo di Filippo Magnini, al di là delle traversie personali dalle Olimpiadi di Pechino 2008 in poi, è stato per caratteristiche tecniche uno dei nuotatori che più ha pagato l'era del super costumone, perché il super costumone, sintetizzandolo così con questa espressione, era particolarmente adatto per materiali e conseguentemente per caratteristiche di galleggiamento a fisici possenti, muscolari, pesanti. Magnini, che è un grandissimo campione, due volte campione del mondo sui 100 stile libero, ma che ha tutt'altro fisico, più lineare e una nuotata più basata, costruita sulla tecnica, inevitabilmente pagava decimi. E quella è stata una conseguenza classica. Per fortuna che ad esempio un altro atleta azzurro come oggi Luca Dotto, altro grande protagonista, argento mondiale sui 50 stile libero, che ha un fisico simile a Magnini, si trova nella fase emergente e ascendente della sua carriera con questi altri materiali, perché altrimenti forse avrebbe gli stessi problemi. Guarda, a tuo conforto, va bene, non è che avevo bisogno, c'era bisogno della mia testimonianza, parlando con Luca Sacchi, e mi dice che su un 100 metri con il costume si guadagnava almeno mezzo secondo, che oggi è tantissimo. Quindi luci ed ombre, e questo non ci sorprende, perché quando arrivano nuove tecnologie è sempre così. Voglio chiedere un'ultima cosa a Giorgio. Ci sono proprio nell'atletica dei momenti in cui noi come pubblico restiamo abbastanza sbalorditi, ed è tipicamente l'arrivo della maratona. Ogni tanto, quando ci sono le Olimpiadi, ci toccano questi ultimi 4 minuti dove arrivano delle donne o degli uomini rantolanti, camminando in un modo sconnesso, perché la fatica è stata impressionante, no? Lì tu hai la sensazione che non vada bene, insomma, cioè è una gara, però non bisognerebbe arrivare a quei livelli. Le nuove tecnologie, per esempio le nanotecnologie, potrebbero avere degli effetti positivi nel controllare meglio la fatica. Tu come vedi questa cosa? Cioè bisognerebbe non creare quelle condizioni per cui la maratona è quella cosa sfinente, pericolosa, oppure va bene che possa arrivare qualcosa che aiuta il fisico? Ma può arrivare qualcosa che aiuta il fisico. Sul fatto che le maratone, poi, come tu hai prima anticipato, ci siano arrivi veramente sofferti, però può dipendere da tante cose. Prima di tutto, un'errata distribuzione della fatica. Spesso atleti africani e non, correndo dietro ai grossi premi che ci sono per i risultati, se fai un certo tempo l'organizzatore ti può dare 20, 30, 40 mila dollari in più. Quindi la prima parte è chiaro che se vai fuori giri entri poi in crisi e poi puoi pagare sul finale. Poi può essere un caso anche di disidratazione. Se tu durante la corsa, per vari motivi, non riesci a prendere i rifornimenti, oppure ci sono maratone che corri con condizioni di percentuali di caldo, di umidità straordinarie, e quindi è chiaro che queste situazioni violentano il fisico, e quindi tu sei destinato a pagare. Quindi sulla maratona c'è un ventaglio di situazioni che possono mettere in crisi l'organismo. Certo che l'uomo della strada che vede certi arrivi dice: ma questi stanno facendo un'impresa fachiresca. In realtà non è così. Certo, la tecnologia, la maratona, poi magari a livello di alimentari, a livello di altri supporti. Potrebbe. La maratona ha fatto cultura, dalle magliette traforate ai rifornimenti, a una certa maniera di allenarsi, al tipo di scarpe che devi portare in base al peso che hai, insomma. È una raffinata, sì, struttura. Diciamo che forse è il boom dello sport, perché tutti vogliono fare la maratona, tutti vogliono fare la New York, anche se poi forse è un po' una moda, ecco, fondamentalmente. Va bene, grazie a Giorgio Rondelli e a Dario Ricci. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a tutti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. A me ogni volta che incontriamo questo tipo di argomenti mi sembra impossibile, eppure lo sappiamo, ci stanno facendo. Eppure la ricerca sta andando avanti con passi da gigante, cioè, perché ne abbiamo parlato in realtà Mebius qualche mese volta, fa, sì. Però sta andando avanti, soprattutto in questi laboratori di biorobotica, in questi centri di altissima tecnologia, come ad esempio quello di cui stiamo per parlare adesso, che è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, fanno passi da gigante. Per fortuna ricevono ancora un po' di soldini con bandi della comunità europea, piuttosto che, in questo caso si tratta del Ministero della Ricerca, e grazie insomma a questi finanziamenti riescono ad andare, avanti. E qui l'obiettivo è alto. Assolutamente alto ed eccellente, perché si tratterebbe di creare una protesi, stanno lavorando ad una protesi robotica per la mano sentita come naturale, quindi con la massima intuizione da parte di chi ad opera, da chi l'indossa, e quindi non invasiva. Qui con noi c'è Cristian Cipriani, che è un giovane ricercatore appunto di questo laboratorio dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera Cipriani. Salve. Buonasera. Ecco, il suo progetto ha ricevuto, mi sembra, qualcosa come 318.000 euro appunto dal Ministero della Ricerca, per un progetto appunto, come abbiamo detto, ambizioso, che si chiama My Hand. Sì. Il progetto appunto è stato finanziato recentemente dal Ministero della Ricerca, e ha come obiettivo quello appunto, come dicevate voi, quello di sviluppare una protesi di mano facilmente controllabile e fisiologicamente percepibile da parte della persona. Quello che vogliamo fare noi è proprio rimpiazzare l'arto perduto con una protesi che possa essere il più simile appunto alla mano originale. Ecco, ma c'è un punto di interfaccia tra l'artificiale e il naturale, no? Sul quale bisogna lavorare. Su quali principi, quali meccanismi, com'è che riuscite lì a capire che qualcosa di artificiale può... Perché poi si tratta in fondo anche di ingannare il corpo, no? Più che ingannare si tratta di registrare quei segnali che sono naturalmente presenti e che in qualche modo attraverso l'ingegneria si riescono appunto a percepire. Per esempio, le protesi tradizionali adesso funzionano utilizzando degli elettrodi superficiali che si applicano sul moncone e che registrano le contrazioni dei muscoli residui, per cui la volontà di muovere il muscolo viene associata a una movimentazione della protesi robotica. Noi vogliamo spingerci molto oltre, vogliamo riuscire a controllare una protesi a un elevato numero di gradi di libertà, ovvero a numerose dita, e capace di fare più azioni rispetto alle protesi tradizionali. E per fare questo vogliamo usare ancora delle interfacce non invasive, quindi che registrino i segnali mioelettrici dovuti alle contrazioni, associare questi segnali a un sistema di misurazione del moncone nello spazio, usando un sistema tipo quello della Wii di Nintendo, tanto per intenderci. Della Wii del Nintendo, proprio con un accelerometro, insomma, una sorta di proprio un accelerometro, così questo è. Sì, si chiamano Inertial Measurement Units, per cui unità di misura inerziale. Riescono in qualche modo, è possibile riuscire a monitorare la posizione di un oggetto nello spazio, in questo caso il moncone, e poiché la posizione a seconda della posizione del moncone si ha un pattern mioelettrico diverso, noi saremo in grado di bilanciare appunto gli effetti negativi, per esempio del peso e dell'inerzia della protesi. Questo è proprio il principio su cui si basa questo progetto. Senta, c'è una cosa singolare nel braccio che uno ha perso, insomma, no? Gli è rimasto il braccio monco, però tutti i segnali che andavano verso il braccio quando c'era quello naturale, restano inalterati e quindi possono essere connessi a una protesi artificiale che li legge correttamente, cioè c'è questa memoria nel punto di interfaccia, no? Sì, diciamo che dopo un'amputazione la perdita è proprio funzionale della mano, la mano non c'è più, però tutti i muscoli, a meno che l'amputazione non sia proprio insomma drammatica da un punto di vista chirurgico, tutti i muscoli sono ancora lì, e se non si atrofizzano e quindi se si usano, insomma, loro permettono il trasferimento delle informazioni come facevano in origine. I nervi sono ancora lì, per cui tutto il sistema nervoso è ancora inalterato sostanzialmente, se non c'è stata una lesione, un incidente un po' devastante che allora abbia... No, non c'è nessuna interruzione del sistema nervoso, per questo è possibile in qualche modo recuperare l'informazione originale volontaria. Ecco, a che punto siamo, Cipriani, di ricerca? Cioè, è una cosa che possiamo sperare sia realizzata in tempi brevi e con costi anche, perché immagino che questo tipo di protesi siano anche molto costose. Infatti anche i costi, si riusciranno ad avere dei prodotti accessibili? Dunque, l'obiettivo di questo progetto in particolare è sì ambizioso, però non punta sulla Luna e quindi secondo noi sarà possibile realizzare una protesi a un costo, diciamo, onesto e non fantascientifico, e questo nel giro di insomma dei prossimi 5-6 anni, diciamo. Questo è l'obiettivo a cui puntiamo, per cui no, grandi cifre no, non vogliamo scappare da questo. E Cipriani, come fa una protesi che obiettivamente è artificiale ad essere percepita come naturale e quindi avere anche tutta una serie di sensibilità che ha la mano umana? Dunque, di nuovo ci sono due punti da toccare. In primis, la protesi artificiale deve chiaramente contenere dei sensori, per cui deve essere in grado artificialmente di riconoscere qualcosa, per esempio il contatto, la forza, la pressione, la vibrazione o qualsiasi altra informazione che la nostra mano originale e naturale ci permette di misurare. In secondo luogo è necessaria un'interfaccia adeguata, un metodo per trasferire questa informazione in qualche modo alla persona. E quindi nel nostro progetto l'obiettivo è sempre ambizioso, però raggiungibile, ed è quello di utilizzare una matrice di elementi vibranti capaci di restituire delle informazioni riguardo alla localizzazione del punto sulla mano, per esempio quale delle dita ha toccato, e in qualche modo sull'entità della forza del contatto, per esempio, e quindi vibrare più o meno forte. Queste mani qui avranno anche una certa sensibilità tattile? Sì, la sensibilità tattile sarà integrata nelle dita. Ci saranno un set di sensori che permetteranno alla mano, appunto, di eseguire le prese in maniera stabile, in maniera automatica, e come dicevo prima dovranno esistere dei sensori, noi pensiamo di forza e di contatto sulle dita, la cui informazione potrà essere restituita alla persona di modo che la persona senta quello che sta toccando. E come sviluppi futuri, Cipriani, possiamo immaginarci magari fra qualche anno delle protesi anche di altre parti, magari ancora più le sensibili? Diciamo che la ricerca sulle gambe è molto più avanzata e già oggi ci sono dei prodotti che chiamano bionici, quelli che li vendono i produttori. Sviluppare una gamba è molto più semplice, sì, perché il cammino è ripetitivo, e perché con la gamba alla fine si cammina e basta, non si prendono oggetti, non si parla, non si gesticola, quindi è tutta un'altra faccenda. Però ecco, nelle protesi di arto inferiore siamo già abbastanza. Va bene, allora insomma, Cipriani, in bocca al lupo, ci faccia sapere come va nei prossimi anni. Credi. Grazie. Arrivederla, Cipriani. Arrivederci, grazie. Parliamo adesso di Sirius Game e lo faccio con Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ma anche con Orazio Miglino. Buonasera Miglino. Buonasera. Dell'Università di Napoli Federico II, dove insegna psicologia generale. Parliamo di Sirius Game, ne abbiamo parlato un'altra volta qui in radio. Sono dei videogame che però, invece che avere una funzione semplicemente di divertimento, ed essendo molto meno spettacolare dal punto di vista delle immagini, della multimedialità, hanno uno scopo ben preciso, che è quello di addestrare ad una particolare professionalità o qualcosa anche di più complesso, e infatti è di questo che stiamo per parlare, no Barbara? Sì, esatto, qui si parla addirittura di addestrare qualcuno a fare il leader, non tanto il leader di piazza, come possiamo immaginare, quanto la persona che è in grado di coordinare il lavoro di molti altri e quindi di creare dei gruppi motivati e di portare a casa alla fine un risultato. Certo. E mi pare che si possa citare, ne parlavamo prima, no, dell'intervista, si possa citare un esempio molto specifico di Sirius Game, e poi qui vedremo che ce n'è uno un po' più complesso. Sì, ne esiste uno di questi questi giochi professionali, come li potremmo chiamare, che serve a formare i camerieri, serve a addestrare le persone che vogliono fare il cameriere a fronteggiare quelle piccole emergenze che continuamente si presentano quando si fa questo lavoro, dal piatto di portata che si rovescia al cliente un po' nevrotico. Ecco. Certo che qui la situazione è molto più complicata, perché già è difficile riuscire ad addestrare virtualmente qualcuno a fare il cameriere, ma per fare il leader ci sono molte più implicazioni. E quindi io vorrei capire come le avete gestite nel disegnare il vostro gioco, tutte le complicatissime implicazioni personali che entrano in gioco quando uno vuole fare il leader, vuole fare il manager. Bene, guardi, allora innanzitutto cerchiamo di chiarire un po', perché il mondo dei serious games è molto vasto, appunto per lui ha fatto il caso dell'addestramento dei camerieri. Diciamo che i serious games vengono sviluppati per due obiettivi: o addestrare dei cosiddetti soft skills, cioè delle competenze trasversali, il saper negoziare, appunto il saper interfacciarsi con un'altra persona, eccetera, oppure sulle hard skills, cioè sapere entrare in un mondo di conoscenze. Allora, il nostro caso è stato un serious game sulla leadership, finanziato da un progetto europeo, quindi si tratta di un progetto di ricerca. Nel nostro caso abbiamo sviluppato dapprima un prototipo che fa entrare in un mondo simulato, in una sorta di laboratorio simulato, un giocatore che riveste il ruolo di un manager e che deve in qualche modo coordinare un gruppo di agenti artificiali appunto a compiere dei lavori. L'obiettivo fondamentale è quello quindi di trasferire delle conoscenze della leadership, delle conoscenze scientifiche, teoriche, quindi le cosiddette hard skills. Ovviamente, siccome il gioco ha anche una parte esperienziale, cioè i serious games potenziano questo aspetto degli processi di apprendimento, cioè hanno una parte laboratoriale, esperienziale, e si hanno comunque anche un apprendimento, diciamo, o una riflessione su delle soft skills, cioè appunto la capacità di governare un gruppo. Ovviamente a giocare a un videogioco non si diventa leader, però si possono conoscere delle dinamiche che sono state ben studiate e che si suppone che, conoscendo queste dinamiche che accadono nei luoghi di lavoro, si può migliorare il lavoro stesso, sia se si è un manager, sia se si è un impiegato. Quindi non è tanto un gioco per apprendere qualcosa di specifico come propria professionalità, ma in prima istanza è entrare dentro un habitat e riconoscere tutto un insieme di meccanismi che appartengono anche alla realtà delle cose. In prima istanza è questo. Esattamente. Però poi si apprende anche come un po' gestirli, o no? Sì. Esattamente, perché siccome c'è una doppia valenza. Se io leggo il manuale sulla leadership, posso conoscere le teorie generali della leadership. Le leggo e conosco, basta. In un laboratorio simulato ho una variabile in più. Un laboratorio simulato che è il videogioco, agisco. Quindi posso entrare in modo sperimentale, proprio manipolando, ovviamente in modo divertente, proprio perché è un videogioco, manipolare delle variabili, appunto, sulla motivazione, sui carichi di lavoro, sulla gestione dello stress, sulla gestione delle deadline, eccetera, tipiche dei piccoli gruppi, che tipo di un'agenzia di banca o di un team di vigili urbani, eccetera, tipiche dell'ambiente di lavoro, ecco. Voi avete dovuto tenere in considerazione nel disegnare questo gioco, come diceva lei, diverse variabili. Che competenze avete messo in campo? Bene, allora noi siamo partiti da una teoria generale molto accettata nel mondo appunto scientifico, la teoria della full range leadership, in cui si spiegano i fenomeni che si instaurano all'interno di un piccolo gruppo, come la manipolazione di variabili psicologiche di ogni individuo, cioè la capacità di saper motivare, la capacità di saper dare un rinforzo quantitativo in un certo periodo di tempo, la capacità di... Quindi nel vostro gruppo c'erano psicologi, che tipo di competenze c'erano? Allora, io sono uno psicologo, appunto insegno psicologia generale, sono uno psicologo e mi occupo di modellistica, cioè trasformo le teorie in modelli artificiali, formali, eccetera. Vi è stata una collaborazione di uno psicologo abbastanza importante, uno psicologo della personalità italiano, si chiama Claudio Barbanelli della Sapienza, e questo è la il versante modellistico. Il versante del game design è stato fatto dall'Università di Lincoln, quindi diciamo noi abbiamo prodotto le conoscenze scientifiche, le abbiamo trasformate in modello, ma la parte giocosa, cioè il game design, è stato fatto da altri esperti, non noi, di un gruppo dell'Università di Lincoln della Gran Bretagna, e una serie di aziende di formazione europee hanno testato il primo prototipo su una dimensione europea, appunto direttamente nei luoghi di lavoro. E che effetto ha avuto questo test? Beh, è stato abbastanza interessante, perché abbiamo fatto degli studi direttamente appunto su lavoratori dai 35-40 anni in poi, e in effetti è stato accolto molto bene, molta gente si è impegnata appunto nel gioco, anche perché c'è una competizione online fra gruppi diversi, tra individui diversi di dimensioni europee, c'è una classifica diciamo del manager di questi gruppi artificiali, e diciamo i 35-40 anni, dai 35-40 anni hanno accettato benissimo questa metodologia. Una cosa interessante è stata questa: abbiamo fatto uno studio su un gruppo di controllo di ragazzi 17-18, molto giovani, che hanno completamente invece rifiutato il gioco. Allora sembrerebbe un insuccesso, in realtà invece ci fa riflettere come ogni cosa ha una sua nicchia di applicazione. Questo quindi è un videogioco che, se viene incorporato all'interno di una motivazione a conoscere qualcosa del proprio lavoro, è ovvio che viene accettato, altrimenti vivere come videogioco in sé potrebbe risultare abbastanza noioso, come andare appunto. Non è molto dinamico, sì, avendo provato a giocarlo, posso dire che. Il game design però ha avuto successo nel caso della Lincoln, perché andava ad intercettare appunto il bisogno di una nicchia, non costruire un videogioco appunto che poteva essere confrontato con i videogiochi degli adolescenti. Miglino, questo gioco, questo Serious Game è accessibile liberamente? C'è un sito nel quale lo si può giocare? Sì, sì, si può giocare con una registrazione molto agile, si entra nel gioco e ovviamente bisogna essere disposti ad entrare in un mondo di apprendimento. Allora l'indirizzo è il consueto www.learntolead.unina come Università di Napoli.it. E comunque lo si troverà sul nostro sito agganciato a questo servizio. Grazie Emilino e buon lavoro. Grazie e buonasera a voi. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Sono rimasti, ma loro si Alberto guadagnano così. Loro guadagnano così. Sì, adesso. Anche questo della Bando Giro, cioè poi. Quando l'epifania... Anche se l'epifania è finita. No, no, adesso si sono fermati, finalmente. Vedi. Ciao Chiara. Ciao Federico. E niente, le feste sono finite e quindi ricominciamo l'anno. A lavorare. Che sia un buon anno per tutti. L'abbiamo già detto, deve essere un buon anno. Grazie, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao.